Euroreportage. Tra Calais e Dover, la Gran Bretagna divorzia dall'Unione Europea, di Sergio Nava. Buongiorno da Calais, nord della Francia. È il 31 gennaio e ci troviamo di fronte al terminal dei traghetti verso Dover. Oggi è una data storica per queste due città. Si tratta infatti dell'ultimo giorno dopo 47 anni in cui Calais e Dover si trovano a condividere l'appartenenza all'Unione Europea. Dal 1 febbraio cambia tutto, la Gran Bretagna diviene formalmente un paese extracomunitario. In questo Euroreportage di confine tra Calais, Dover e Londra vi racconteremo le ultime ore della Gran Bretagna nell'Unione Europea viste dalla Francia. Vi porteremo ad attraversare la Manica insieme a un tir che percorre questa tratta e vi faremo sbarcare nella nuova Gran Bretagna indipendente. Faremo insomma insieme a voi il primo viaggio via mare post-Brexit, vivendo insieme questo momento storico. E allora, venite con noi! Don't look back in anger, cantavano gli Oasis nel 95 quando si parlava di Cool Britannia e Tony Blair si apprestava due anni dopo a diventare premier all'apice di una fase di europeismo presto dimenticata oltremanica. E come in tutti i divorzi che si rispettano, non è il caso di guardare indietro con rabbia a ciò che è stato. Tornando al porto di Calais, il suo presidente Jean-Marc Puissesseau vede la conclusione di Brexit con un sospiro di sollievo in questa intervista a Radio 24. Ma écoutez, d'abord, il faut dire que nous sommes enfin libérés d'une attente qui dure depuis 2016. Bisogna dire che noi ci siamo finalmente liberati di un'attesa che è durata anni. Abbiamo sempre pensato che sarebbe stata una hard Brexit ed è possibile che sia ancora così. Insomma, vedremo. Sinon pour le port, non rien ne change. Demain ce sera pareil puisque une année de. L'anno scorso è stato un anno difficile. Oggi finalmente sappiamo cosa succederà. Per il porto non cambia niente. Domani sarà lo stesso giorno di oggi. Abbiamo ancora davanti un anno per l'applicazione della Brexit in base alle trattative che si faranno tra l'Europa e il Regno Unito. Depuis un an nous avons. Io vorrei demistificare la Brexit. Non significa il caos dei trasporti, anzi è il contrario. La sola condizione a cui dobbiamo lavorare è che bisogna creare delle dichiarazioni immateriali, digitali per i trasportatori. Se sarà così non ci sarà nessuna ricaduta e il traffico sarà come oggi. Ci sarà un codice, si arriva, si verifica e si passa via, senza problemi. Calais guarda con pragmatismo a questo nuovo capitolo della sua storia e al di là dell'incertezza che regna sul futuro dei rapporti commerciali e di transito con la vicina Dover, sulla costa francese si ragiona già sul ritorno del business del duty free con un potenziale incremento futuro di turisti britannici alla ricerca di prezzi più bassi. Tutte da decifrare invece le conseguenze di Brexit sul problema migranti che continua ad affliggere la città francese. Il vice sindaco di Calais, Philippe Mignonnet. Rappelez-vous, en octobre 2016, le démantèlement du bidonville. Ricorderete nell'ottobre del 2016 lo smantellamento della bidonville, io l'ho sempre chiamata così, dove si trovavano 10.000 migranti. Sapevamo che poi sarebbero tornati. Oggi siamo a 600-700 migranti nell'area di Calais. Bisogna però precisare che non sono in città. Sono attorno alla città, principalmente concentrati in un'area che non è molto distante dal porto di Calais, dove attendono di poter raggiungere l'Inghilterra. I tentativi di traversata con quelle che chiamiamo small boats effettivamente avvengono spesso. Alcuni tentativi sono stati sventati. Praticamente tutti i giorni si effettuano salvataggi in mare. Ma la nostra, come vi accennavamo all'inizio, è soprattutto la storia di una traversata, quella che compiamo in tir nello stretto della Manica la mattina del primo giorno della Gran Bretagna post-Brexit. Insieme a noi Michele Giordano, autista della compagnia TN Torello Trasporti. La sera prima di imbarcarci, Michele descrive così il flusso merci lungo la trafficata rotta Calais-Dover. Quasi 2 milioni di camion attraversano il canale ogni anno. Sono partito da Napoli, vado in Galles, scarichiamo in Galles. Nella vostra esperienza di azienda Torello, che tipo di flussi registrate verso la Gran Bretagna? Nell'ultimo anno abbiamo evaso, la Torello ha evaso più di 62.000 ordini, di cui 8.300 riguardavano un trasporto da e per gli UK. Si tratta circa del 13% del totale dei trasporti in Europa che abbiamo evaso. 5:52 di sabato 1 febbraio. La Gran Bretagna è uscita dall'Unione Europea da neppure 6 ore e insieme a Michele Giordano della TN Torello Trasporti. Stiamo andando a imbarcarci a Calais per andare a Dover. Allora, innanzitutto, Michele, raccontaci brevemente cosa stiamo facendo. Noi siamo appena usciti dal parcheggio e abbiamo un po' di strada per andare al porto di Calais. 10 minuti saremo al porto e scopriremo la situazione reale. Essendo sabato mattina non dovrebbero esserci molti camion, però vediamo che succede. Mi raccontavi che questa rotta, questo pezzo di strada che vi separa dal porto, in questi ultimi anni è stato abbastanza complicato per la presenza di migranti. Voi avete avuto esperienze al proposito? Per fortuna noi siamo un'azienda che, facendo questa tratta regolarmente, abbiamo preso le contromisure da subito, e quindi anni fa venivamo nel porto a fare la pausa, c'era la jungle vicina, però era tutto regolare. Adesso la situazione è diventata, diciamo, selvaggia, perché anche noi ci fermiamo a 500-600 km dal porto per non avere problemi, perché abbiamo riscontrato che qui non è più sicuro. 5:59, in soli 7 minuti siamo arrivati dal parcheggio protetto dove appunto abbiamo lasciato il tir nella notte, e siamo arrivati proprio pochi istanti fa al porto di Calais. Direi, Michele, se qualche timore per questa Brexit c'era, lo possiamo fugare, è praticamente deserto. Sì, in effetti non c'è molto traffico, anzi, situazione molto regolare. Siamo, non dico da soli, ma vediamo. Esatto, ci sono comunque alcuni tir in attesa di entrare. Come funziona? Ecco, spiegaci come funziona. Siamo presenti in un rettilineo e tu ti devi ovviamente incolonnare in una fila. Cosa accadrà ora? Adesso dobbiamo fare dei controlli al camion, poi faremo il biglietto, ci incoloneremo in alcune file apposta per i camion e poi saliremo quando sarà il nostro turno. Vediamo, se hanno fatto qualcosa gli inglesi, può darsi che hanno messo qualche punto di controllo, non lo so ancora, vediamo. Michele, abbiamo passato pochi istanti fa il, chiamiamolo pure, checkpoint, dove viene alzata la sbarra, viene segnalata la colonna in cui appunto mettersi in fila insieme agli altri tir. Non c'è moltissimo traffico, abbiamo qualche tir davanti. Cosa accade adesso? Adesso, come ti dicevo prima, facciamo il controllo al camion con dei sistemi che dovrebbero rilevare la temperatura corporea, se c'è qualche immigrato all'interno del rimorchio o nel camion da qualche parte. Poi passiamo e poi ci dovrebbe essere il controllo inglese. 6:44. C'è stato un piccolo problema, Michele, perché al controllo hanno notato il mio microfono e ci hanno bloccato per circa 20 minuti. È arrivata la polizia, raccontiamolo pure, sono esperienze. Cos'è successo? Ci hanno chiaramente fermati e volevano spiegazioni, volevano capire. Io sinceramente, dalla mia esperienza con i francesi, ho avuto paura, dico, qui abbiamo perso il traghetto e chissà come va a finire. Però tutto sommato, dai, ci è andata bene. Abbiamo anche saputo una cosa importante, e cioè che il problema clandestini di cui parlavamo prima continua, tanto che sono state erette poco dopo il nostro passaggio, poco prima dell'arrivo al porto, delle barricate, e quindi si ripresenta sempre questo problema. Cosa succede nei fatti quando vengono fatte queste barricate, Michele? I clandestini sono disperati, quindi tentano di entrare nei camion, fermano le macchine con l'obiettivo di far fermare i camion, e quindi a loro volta poi cercano di entrare nei camion. Chiaramente sono situazioni anche pericolose per gli autisti. Michele, noi entriamo un po' in silenzio radio perché ci hanno avvertito che i doganieri britannici potrebbero essere anche un po' più rigidi di quelli francesi, magari poi riprendiamo dal traghetto, che dici? Sì, perfetto, va bene. Le 7 del mattino, stiamo imbarcando proprio in questo momento sul traghetto che ci porterà a Dover, nella Gran Bretagna, diciamo pure indipendente, uscita dall'Unione Europea. Michele, raccontiamo le ultime fasi. C'è stato ancora qualche controllo, vero? Sì, controllo inglese, adesso stiamo salendo sulla nave. Gli inglesi non hanno fatto, insomma, grandi problemi. In questo momento il nostro tir sta entrando nella pancia proprio del traghetto di FDS, che tra una quarantina di minuti circa ci porterà a Dover, quindi in Gran Bretagna. Tempo previsto il tragitto, Michele? 1:30. Michele, sono le 8 del mattino, le 7 in Gran Bretagna. Gran Bretagna appunto da stanotte indipendente, siamo finalmente approdati sul traghetto, fatta anche una discreta colazione, e a questo punto ci stiamo muovendo in direzione di Dover. pochi turisti, pochi anche tir, devo dire, a bordo per questo primo giorno vero di Brexit. Tutto a posto, ma da gennaio l'anno prossimo potrebbe essere un po' diverso. Tu cosa ti aspetti? Gennaio dell'anno prossimo credo che di sicuro ci saranno delle attese lunghe per le dogane. Non so come si organizzeranno e quindi questo potrebbe essere un problema, però abbiamo un anno di tempo e speriamo che riusciamo a trovare una soluzione. Allora Michele, noi ci salutiamo qui, anche perché sarebbe un po' troppo complicato sbarcare con te, quindi tu proseguirai, dove andrai e cosa porterai? Come merce o gelati vado in Galles. Allora buon viaggio. Grazie. Una volta sbarcati a Dover, veniamo raccolti al traghetto da Jesper Christensen, direttore delle operazioni della compagnia di trasporto di FDS nel porto britannico. Prima di ripartire in treno verso una Londra ancora in fase di ripresa dopo la lunga notte di Brexit, chiediamo a Jesper com'è andata la prima mattina fuori dall'Unione Europea. Lui ci conferma che è stato business as usual sul fronte delle operazioni di trasporto lungo la rotta Calais-Dover. Poi analizza la situazione. Ascoltando ciò che dicono i governi, poiché la Gran Bretagna lascerà nel 2021 l'Unione Doganale e il mercato unico, dobbiamo prepararci alla reintroduzione delle dichiarazioni doganali che avverrà dal 1 gennaio. Abbiamo passato tutto lo scorso anno a prepararci a questa eventualità. Questo porrà dei problemi sul fronte import-export. A questo proposito, continueremo a lavorare coi governi per arrivare a un sistema che minimizzi i controlli al confine e mantenga fluido il flusso merci. La digitalizzazione dei documenti doganali è la soluzione più semplice. Non possiamo tornare all'era dei documenti cartacei. Speriamo in una digitalizzazione dei documenti e speriamo che i tir arrivino già pronti in questo senso quando varcano la soglia del porto. Se arrivassero qui senza documenti in regola, beh, sarebbe già tardi. Chiosa Jesper Christensen. To start doing all the preparation. Bocca al lupo per il prossimo anno. Euro Reportage. In collaborazione con Euronet Plus.